Ci vuoi far? Non posso mentire, né puoi impedirmi di sognare che piace restare vicino a te. Sognando che sempre tu vorrai bene solo a me. Sento questo cuore più forte ancora vibrare. Lasciami un po' sperare che vuoi fare se t'amo, che ci vuoi fare, non posso sentire né puoi impedirmi di cuore più forte ancora vibrare. Lasciami ancora un po' sperare che vuoi fare se t'amo, che ci vuoi fare, non posso sentire né puoi impedirmi di